eccomi qua, ero tentata di fare un minuto di silenzio tipo i mistici, però poi ci ho ripensato, parlerò, allora parlerò finalmente 40 anni di Radio Onda Rossa, siamo contentissimi, anche se i 40 anni avrei preferito averli io, comunque vabbè, qualcuno almeno ce l'ha Radio Onda Rossa, ha resistito, siamo tutti con lei, io fra un po' il raddoppio come Wind, ne farò 80, no scherzo, farò un minuto però, no non farò un minuto lì, farò un po' più di un minuto per la serata, venite a vederla perché sarà piena di persone, tra l'altro molte le conosco e quindi vi posso garantire che sarà una serata folle, quantomeno folle.